Ottobre piovono libri. Non fa parte della nostra tradizione, eppure da anni anche in Italia c'è l'abitudine di festeggiare la notte di Halloween e sono tante le iniziative anche per chi ama la lettura. A Bologna la notte dei libri viventi, sabato 31 ottobre dalle 21 in poi nella biblioteca Sala Borsa si leggeranno racconti di paura. 35 ragazzi fra i 9 e i 12 anni assisteranno a proiezioni, letture, ma parteciperanno anche ad una caccia al tesoro, naturalmente in stile Halloween. Insomma, passeranno tutta la notte in biblioteca, come ci spiega la curatrice dell'iniziativa Tiziana Nanni al microfono di Stefano Totoro. Loro arrivano in biblioteca alle 9 di sera, quando la biblioteca è già chiusa, quindi è già in un'atmosfera un po' buia, e bisogna naturalmente avere in mente la biblioteca. La biblioteca è in un edificio storico dentro al Palazzo Comunale, ha delle parti in stile Liberty, era stata anche una banca una volta e per cui ha le cassaforti nel sotterraneo, e in genere i ragazzi si fermano solo nella biblioteca ragazzi, invece qui si andrà anche in quella adulti, si andrà all'ultimo piano, si andrà nei sotterranei, quindi avranno un ambiente nuovo. Comunque i ragazzi prima arrivano e assistono a delle letture che vengono fatte da un gruppo di volontari. Saranno letture è un racconto di Wells, uno di Maupassant, I lupi nei muri di Gaiman, particolarmente pauroso. Questo dura tutta la notte, i ragazzi dormono in biblioteca. Con una trama precisa, i ragazzi dovranno dividersi a gruppi e cercare delle cose, risolvere delle cose, viaggiando in vari luoghi della biblioteca, opportunamente attrezzati e preparati ad essere un po' paurosi. Ci sarà il tunnel con le ragnatele e ci saranno cose che contribuiscono a creare un clima particolare. I ragazzi vengono con il sacco a pelo e andiamo tutti e dormiamo in una sala della biblioteca. Oltre a Bologna, anche in altre città si festeggia Halloween con i libri. A Ravenna, nella biblioteca comunale, Dolcetto Scherzetto per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Ad Agrate Brianza, vicino Monza, la serata con il mistero, una caccia al tesoro guidata per i bambini. Tutte le informazioni su queste e le altre iniziative di ottobre piovono libri su www.cepel.it oppure radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco. Ottobre piovono libri, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura.